Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Mister X piangeva quando gli hanno detto che il bosone era confermato, comprensibile, dopo quasi 50 anni. Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi iniziamo. È arrivato Higgs con il suo bosone. Questa volta è confermato e lo si cercava da 48 anni. Sentore di mirtillo e profumo di fieno tagliato. Ma da cosa derivano i profumi nel vino? È la domanda impossibile della nostra ascoltatrice Enrica. La sogliola e gli altri pesci piatti rappresentano da sempre un enigma evolutivo. Ora un fossile scoperto in provincia di Verona potrebbe aiutare a risolvere il mistero. In Emilia si ricostruisce, allora che lo si faccia con le tecnologie più moderne. Un convegno a Ferrara riflette sulle molte proposte innovative. Due archeologi romani conquistano la copertina di Nature. Hanno trovato nel Sahara libico tracce di latte e formaggi di 7.000 anni fa. Noi del bosone di Higgs vi abbiamo detto tutto in questi mesi, non chiedeteci di rispiegarvi alcune delle cose fondamentali, poi avrete letto molte cose, però la notizia della settimana è certamente lui, il bosone di Higgs, e quindi ritorno da Barbara Gallavotti. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Tu sei lì al CERN, hai seguito proprio vicinissima tutte le fasi finali dell'annuncio, hai un ospite con te. Ho un ospite, è Gian Giudice, è uno dei più noti fisici teorici del CERN. Qui si sta assistendo a una certa separazione fra i fisici teorici e i fisici sperimentali. Gli sperimentali, l'ha detto anche ieri Rolf Hoyer, il direttore generale del CERN, continuano a insistere dicendo che è vero, è stata trovata una nuova particella, è stata fatta una scoperta, ma è ancora troppo presto per dire se questa particella sarà davvero il bosone di Higgs. I teorici già da dicembre in realtà si sono sempre sbilanciati di più e dal loro punto di vista sembrano non esserci dubbi, è stato scoperto il bosone di Higgs, resta da capire qualcosa, ma il bosone è lì ed è lui. Buonasera Giudice, ma non è che lei adesso ci riapre la vicenda in chiusura di questa settimana, mi pare che ci siano differenze, ma insomma minime tra di voi, o no? Sì, sono differenze minime, certamente sempre gli sperimentali sono più prudenti perché la scoperta è frutto del loro lavoro, quindi vogliono stare molto attenti, però io direi che a questo punto non ci sono dubbi, è stata scoperta una particella che ha tutte le caratteristiche che ci aspettavamo per essere il bosone di Higgs. Direi decisamente che è stato scoperto il bosone di Higgs, ovvero è stata scoperta la particella che soddisfa quelle proprietà richieste al bosone di Higgs, quindi non tanto spiegare l'origine della massa, come vedo scritto sui giornali, quanto spiegare la struttura dello spazio o, se vogliamo, determinare la grandezza, la dimensione degli atomi piuttosto che la loro massa. Quindi le caratteristiche sono quelle, ora bisognerà studiare in dettaglio le proprietà di questa particella per capire la sua struttura e quindi capire qual è la sua descrizione teorica. Perché se vogliamo noi abbiamo un modello di riferimento e entro gli errori sperimentali c'è un buon accordo, però sappiamo che questo modello di riferimento non è definitivo e quindi vogliamo cercare di avere misure sempre più precise per capire se il modello di riferimento è giusto o se va modificato e come. Bisognava capire se c'era un'automobile, adesso questa certezza c'è, bisogna lavorare sulla marca, insomma. Certamente, anche perché bisogna capire che il bosone di Higgs fa parte del settore della teoria più debole dal punto di vista concettuale, mentre il resto della struttura delle particelle è basata veramente su principi fondamentali che capiamo perfettamente e quindi è difficile da modificare. Nel caso del bosone di Higgs abbiamo ancora grande ignoranza e quindi non sappiamo esattamente come devono essere le proprietà, anzi devo dire che noi fisici teorici speriamo che le misure indichino una differenza, una discrepanza con il modello di riferimento, proprio perché pensiamo che il bosone di Higgs debba nascondere dietro di sé un fenomeno più complesso e più importante che possa rispondere alle domande che il bosone di Higgs da solo non riesce a rispondere. Lei mi diceva ieri una cosa interessante, mi diceva che potrete dire che questo bosone non è esattamente come ve l'aspettavate, ma non potrete mai dire che invece lo è, che è proprio lui. Come mai? Certamente, è un fatto di errore sperimentale, quindi si può contraddire un modello, ma si può soltanto confermare un modello entro un certo limite, che al momento questo limite è ancora molto molto rozzo, le misure non sono sufficientemente precise, si potrà però sempre migliorarle. La cosa importante è quando si dice il bosone di Higgs standard, quello è un modello di riferimento, ma non è sicuramente l'unico, quindi tutto l'interesse adesso è di capire le sue proprietà, non tanto per confermare una teoria, ma per cercare di capire che cosa ci sta dietro. Adesso, giudice, quando ci risentiamo in termini di tempo? Ci sarà un sacco di lavoro da fare. Allora, adesso l'idea è che la macchina dell'LHC continuerà a prendere dati fino alla fine di quest'anno per chiarire queste prime leggere discrepanze che ci sono osservate. Poi ci sarà un lungo periodo in cui la macchina è ferma, perché ci si deve preparare per fare il salto di un'energia ancora maggiore. Durante quel periodo non ci saranno nuovi dati, però sicuramente gli sperimentali continueranno il loro lavoro di perfezionare le analisi. Vorrei aggiungere che proprio ieri la direzione del CERN ha deciso di prolungare le attività dell'acceleratore LHC, che sarebbero dovute terminare a dicembre per consentire poi una lunga pausa di lavoro sulla macchina, verranno invece prolungate fino a metà del febbraio 2013, proprio per consentire di raccogliere più dati e definire meglio il profilo di questa nuova particella. Comunque, Barbara, noi la tribù del CERN la stiamo seguendo con grande simpatia ed affetto e quindi continueremo a farlo nei prossimi mesi attendendo le loro notizie. Assolutamente. Grazie Barbara e grazie giudice. Grazie. Buon lavoro. Siamo la patria del vino, dai, su, diciamocelo. Sì, le cose stanno così. Altro che i francesi. Chiara Alberto, prima o poi una domanda sul vino doveva arrivare. Doveva arrivare. E infatti ci è arrivata da una nostra ascoltatrice, una donna, quindi sono molto fiera. Ci ha contattato tramite mail, perché lo sapete, ci potete scrivere mebius@radio24.it, ma non solo. Non solo, poteva scriverci anche via Facebook, Mebius Scienza. Oppure via Twitter, mebius_online. Ma veniamo al sodo. Cioè, dai, su. Al liquido in questo caso. Esatto. La domanda. Enrica. Da cosa derivano i profumi del vino? Più precisamente, perché alcuni vini rilasciano all'olfatto note fruttate, floreali, minerali ed erbacee? Grazie. La domanda è chiarissima, in effetti è una domanda... E anche a me sta bene, certo. Lecita, nel senso che ce la siamo posta tutti. Quante volte abbiamo sentito bouquet di fiori appena raccolti? Ribes nero. Tartufo della parte dell'ombra della collina. Esatto. Ma sarà vero? Lo scopriremo presto. Siamo andati in Piemonte, non per potevamo forza. Andare patria lì. Patria nella patria. E siamo andati da Vittorino Novello, che anche lui è un nome, un programma, se si può dire. Questo è vero. Che è docente ordinario di enologia al corso di laurea di scienze viticole ed enologiche dell'Università di Torino. Buonasera, professor Novello. Buonasera a voi. Ecco, che cosa rispondiamo? In effetti questa è una domanda che ci siamo posti tutti. Sì. Da dove derivano questi sentori anche, scusi, un po' strani, fieno tagliato, tartufo, fungo? Ma derivano chiaramente da alcuni composti del vino. Il vino è una riserva praticamente illimitata di composti, ce ne sono diverse centinaia, e alcuni di questi, essendo volatili, nel senso che si liberano sotto forma di gas, vanno a stimolare le nostre papille, sia quelle del naso che quelle della bocca, della gola, insomma, e quindi danno delle sensazioni che alcuni, ovviamente esperti, riescono a percepire bevendo o annusando un bicchiere di vino. Ma si fa un confronto chimico proprio con le sostanze? Cioè si fa un'analisi chimica per poi fare un confronto col sapore, il gusto che uno sente? Si sta facendo. Diciamo che gli studi sugli aromi sono praticamente all'inizio, perché sono abbastanza difficili. Sono molecole molto, molto, molto poco presenti, con delle concentrazioni molto basse. Per cui, a parte diciamo i terpeni che danno il sapore di moscato, che sono presenti in quantità così elevate che lo sentiamo senza problemi e riusciamo anche ad analizzarle con strumentazioni non eccessivamente complesse. Ma per molti altri sentori, le molecole che danno quei sentori sono estremamente poche e quindi difficile da rintracciare. C'è poi un altro problema, molte delle molecole interagiscono tra di loro, per cui noi sentiamo il risultato dell'interazione e chimicamente questo... Non si può vedere. No, non si può. Hanno tentato di fare anche il cosiddetto naso elettronico, ecco, per sì, infatti, i vari prodotti, ma non c'è naso che tenga, non c'è naso elettronico che tenga rispetto a quello umano, insomma, abbiamo una capacità di percezione che è infinitamente maggiore delle macchine. Il naso, perché il gusto del vino si sente anche nel naso. Un degustatore comincia dal naso, a parte il colore, insomma, prima lo guarda, poi lo annusa e poi lo assaggia. Questi sono i tre momenti della degustazione e quindi il naso è una parte estremamente importante, perché dal naso si possono percepire questa serie di aromi che poi sono anche molto soggettivi. Infatti, scusi, c'è un'infinità di aromi, di profumi che sono veramente tanti. Io ho dato una scorsa su internet, si trova una scheda di degustazione e ci sono veramente un'infinità, ma realmente uno li percepisce tutti o un po', insomma, cioè, è suggestione? C'è del fieno dentro il vino oppure è uno strano accorpamento tra una sensazione nostra e un dato reale? È chiaramente una percezione nostra di un qualcosa che c'è nel vino, che comunque c'è nel vino. Qualcuno può sentirla, qualcuno no, dipende un po' dalla sensibilità delle papille nasali. Per chi magari è esperto in una certa gamma di aromi e quindi quelli li percepisce bene, chi invece magari ne percepisce degli altri. Alcuni sono, come dire, standard. Ricordavo prima il moscato, insomma, quello difficile che è sbagliare. Ecco, ma infatti però ci sono delle convenzioni tra gli enologi, per cui, non so, il Barbera ha sempre quel sentore lì, il Brunello ha quell'altro sentore, e quindi uno studiando, tra virgolette, può affinare la tecnica. Addestrandosi, diciamo. Addestrandosi più che studiando, sì. Diciamo che l'esercizio è la cosa più importante per ottenere risultati in questo campo. Non c'è niente da studiare, o meglio, si possono studiare i singoli aromi, perché esistono delle ditte che producono delle bottiglie, delle bottigliette con i singoli aromi. Ma va? Aroma di rosa, aroma di fieno, aroma di mela, e quindi uno può anche esercitarsi. Però è chiaro che un conto è il singolo aroma. E un conto è averli tutti insieme. Certo. Esatto. E il problema è poi discernere nell'assaggio, diciamo, quando si annusa il vino, si annusa il vino. Però meglio non correggere il vino con questi aromi, ecco. No, assolutamente no. C'è stato uno scandalo di un vino che ha vinto un premio, ma poi si è scoperto che aveva aggiunto... Dopato. Ah. Però, Novello, ammette che sono un po' bizzarri alcuni. Fragola al tramonto. Beh, le fragole al tramonto forse non sono queste. Però è molto bello, diciamo, è suggestivo. La fantasia non manca ed è anche un aspetto interessante, sì, insomma, sì. È un aspetto fascinoso. Deve restare. Tutto aiuta. Uva all'alba. L'uva all'alba. Quella lì è quando tu hai bevuto veramente tanto. Sì, che sei rimasto sveglio. Va bene, grazie Novello. Buona serata. Buonasera. Con la sogliola, vino bianco. Vino bianco, che poi col pesce non è detto che ci voglia il bianco sempre. È vero, di ultimi tempi si dice che il rosso va bene. Va bene anche lui, però... Questo è fossile. Sì, questo è fossile. Alberto Agliotti è qui con me per parlare. Per parlare di sogliola, o meglio in generale di pesci piatti, perché questi pesci che sono un po' particolari erano un enigma dal punto di vista evolutivo, perché mancava un po' l'anello mancante, cioè sembrava che fossero comparsi così dal nulla di colpo. E invece adesso, non dal nulla ma dalla provincia di Verona, sono comparsi dei fossili che sembrano spiegare un po' questa cosa. Sì. Ce lo spiega Francesco Santini. Buonasera Santini. Buonasera. Biologo evoluzionista, ittiologo, esperto quindi di pesci, ricercatore all'Università della California, Los Angeles. Ci dica un po' allora, questo fossile che è stato ritrovato e analizzato, cosa dimostra? Questo fossile mostra uno stadio intermedio nell'evoluzione dei pesci piatti. I pesci piatti sono caratterizzati da una asimmetria del corpo, specialmente della testa, con i due occhi che si trovano tutti e due sullo stesso lato del corpo. Questo pesce mostra una testa nella quale un occhio è sul, come dire, sul lato normale, e l'altro occhio invece un po' a metà strada fra l'altro lato e la metà della testa proprio. Sembra proprio il classico tipo di anello mancante del quale si parla spesso in studi di biologia evoluzionistica, che dimostra come strutture morfologiche possono avere origine l'una dall'altra con queste trasformazioni che spesso mancano nel record fossile, quando vengono trovate vengono interpretate come nuove conferme della teoria dell'evoluzione. Questo fossile è stato scoperto in realtà già qualche anno fa. Come mai solo ora si è capito che quest'occhio era in mezzo? Insomma, non bastava guardarlo, ecco. In realtà sì, il fossile è già conosciuto da alcuni anni, sono stati preparati poi con metodi speciali alcuni esemplari di questo fossile più recentemente, quindi è stata pubblicata adesso una descrizione osteologica più dettagliata della morfologia di questo fossile. Parte del problema che si ha nel lavorare con i fossili è che, siccome lo scheletro fossilizzato dell'animale è inglobato nella roccia, spesso e volentieri non si riesce a vedere. Solo una faccia. Sì, e quindi generalmente con i pesci si vede solamente un lato. Ovviamente se la struttura chiave che indica l'appartenenza di un fossile ad un determinato gruppo è, come in questo caso, la simmetria dell'animale, quindi non si riesce a dire che un lato è diverso dall'altro perché un lato non si vede, diventa difficile stabilire a quale gruppo appartiene. Certo. Ma qui invece com'è andato? Come mai non c'è stato questo problema? Non c'è stato questo problema perché gli esemplari di questo pesce sono stati preparati con delle tecniche particolari e sono stati confrontati poi ad altri esemplari. Friedman ha utilizzato varie tecniche, come ad esempio i bagni acidi, che riescono a sciogliere parte della roccia intorno ad alcuni dei fossili, quindi mettendo in risalto ancora di più le ossa fossilizzate dell'animale. Sono state utilizzate poi delle tecniche di tomografia assiale, quindi alcune delle stesse tecniche che vengono utilizzate per studiare l'anatomia umana sono state utilizzate per creare delle ricostruzioni al computer di questo fossile, utilizzando la differenza nella densità fra le rocce nelle quali si trova questo fossile e le ossa fossilizzate di alcuni di questi animali. Matt Friedman è lo scienziato che ha fatto le analisi, e quindi insomma è una questione di disponibilità di attrezzature, di meccanismi per studiare. Sì. Sì, diciamo che preparare un fossile con questi bagni all'acido richiede mesi e mesi di preparazione, quindi bisogna avere anche il tempo per fare questi studi, e poi fare una tomografia assiale costa in alcuni casi migliaia di dollari, quindi non sono studi economici. Ecco, ma venendo invece a questi pesci, che sono un po' particolari, sono un po' un'eccezione, insomma, sia tra le specie di pesci, ma anche in generale per gli animali. Noi abbiamo parlato qua, tra l'altro, di simmetria. Loro con questa particolare simmetria o mancanza di simmetria bilaterale, che vantaggio evolutivo hanno? Dunque, questi sono pesci che vivono sul fondale, quindi per loro avere i due occhi sullo stesso lato del corpo è importante, perché riescono ugualmente ad avere una visione stereoscopica, quindi riescono a percepire la distanza fra la loro bocca e una potenziale preda. Uno può fare un semplice esperimento: se io chiudo un occhio non riesco a stimare molto bene la distanza fra me e altri oggetti, mentre invece con i due occhi aperti riesco a farlo molto meglio. Un pesce che ha una testa di tipo tradizionale con i due occhi sui due lati diversi, se io lo metto sul fondale non riesce a vedere molto bene. Sì, un occhio rimane prede, coperto. Sì. E quindi i pesci piatti possono adagiarsi sul fondale sabbioso, riescono anche a nascondersi perché hanno delle colorazioni molto criptiche spesso, che assomigliano al tipo di fondale sul quale si trovano, e quindi si nascondono sia da potenziali prede che da potenziali predatori. Bene, grazie Santini, è stato molto chiaro. Ci risentiremo quando ci saranno magari altre novità. Certamente, grazie mille a voi. Buon lavoro, grazie Santini. Buonasera. Emiliani, brava gente, non è un complimento agli emiliani, anche se ci sentiamo assolutamente di farlo, ma è il titolo di un convegno che si è tenuto in questo weekend, Ripensare, Ricostruire, Ripartire, un convegno che si è tenuto a Ferrara. Per parlare di questo convegno e di un aspetto particolare ho qui con me questa sera Giovanni Corbetta. Buonasera Corbetta. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Lei è il direttore generale di Ecopneus, che è una società che però cosa fa? Consorzia diverse altre realtà? Ecopneus è una società per azioni senza fini di lucro che è stata costituita un paio d'anni fa dai principali produttori e importatori di pneumatici in Italia per avere uno strumento pronto ad assolvere gli obblighi che una legge entrata poi in vigore il 7 di settembre dello scorso anno, ecco, questa legge avrebbe dato questi obblighi a produttore importatore operante in Italia. Mm-hmm. C'è questa nuova legge che obbliga chiunque immetta pneumatici nella propria attività commerciale nel mercato italiano a provvedere a poter garantire il completo trattamento a fine vita. Allora, uno potrebbe domandarsi che cosa c'entrano i pneumatici con i terremoti, e invece c'entrano molto, perché per questo convegno è un convegno nel quale avete discusso delle varie possibili tecnologie innovative che possono essere messe in campo in una fase di ricostruzione, e quindi, come dire, una opportunità, una tragica opportunità, possiamo dire così. Ovviamente era molto meglio non aver bisogno di tutto ciò, però nel momento in cui bisogna ricostruire, perché non andare a utilizzare tecnologie avanzate? Abbiamo scelto proprio questa connessione tra pneumatici e riciclo dei pneumatici e terremoti perché lei adesso ci può raccontare che c'è una grande opportunità. Sì, c'è proprio una grande opportunità. Diciamo che questa grande voglia di ricostruire e di ripartire che tocca moltissimo le popolazioni, appunto, purtroppo tristemente toccata dal terremoto, combina un po' con la nostra storia di questi mesi, nel senso che, dicevo prima, Ecopneus è partita a settembre dell'anno scorso ad operare in tutta Italia e quindi sta generando una scia di sviluppo di imprese, una scia di sviluppo di attività, perché questi pneumatici raccolti a fine vita possono essere un grande carburante di green economy, cioè di un'attività che da una parte sviluppa impresa, sviluppa economia, sviluppa benessere per il cittadino, e dall'altra però si appoggia a materiali che provengono dal mondo del rifiuto e che quindi hanno una grande disponibilità e un basso costo, oltre che essere comunque da inquadrare e trattare in un certo modo. Sì. Ecco, intesa in questo modo, questa green economy può offrire grandi occasioni, e le vicende tristi dell'Emilia combinano. Sono una di queste. Sì, perché da questi, per esempio dai pneumatici arrivati a fine vita, si possono ricavare granuli e materiali fini polimerici che possono essere il materiale base per realizzare tutta una serie di oggetti per antisismica nei fabbricati. Per esempio? Un fabbricato antisismico, oltre ad avere alcune soluzioni proprio nella struttura, deve avere nella base dei componenti che elastomerici, quindi di gomma, che disgiungono il terreno, le fondazioni dalla parte sovrastante, in modo tale da poter assorbire le vibrazioni e non trasmetterle né in verticale né in orizzontale alla restante parte della struttura. Ecco, Corbetta, mi scusi, c'è proprio un letto di gomma come fosse un tramezzino, no? Separa la base della casa dal terreno. Come se fosse esattamente una guarnizione o un tappeto. Una grande guarnizione, perfetto. Una grande guarnizione, certamente, sì. Che isola le due parti, e proprio sfruttando il fatto che la gomma è elastica e quindi assorbe le vibrazioni e le smorza, ecco che si sono sviluppate, soprattutto in Giappone, è stato il paese principe di queste applicazioni, e sono state sviluppate un'enormità di componentistica, ovviamente a seconda che si parli di una villetta o di una grande costruzione o di un edificio di natura industriale. Certo. Quindi per ogni tipo di edificio c'è una soluzione. Queste soluzioni possono essere realizzate in gomma, e all'interno delle applicazioni in gomma possono avere grande vantaggio quelle ricavate da un elastomero che, proprio perché ricavato da una pneumatica a fine vita, ha tutte le qualità che deve avere questo materiale, ma allo stesso tempo ovviamente un costo estremamente basso e soprattutto una grande disponibilità già in territorio italiano. Teniamo presente che la gomma vergine o viene da piantagioni del sud-est asiatico o viene da grandi impianti petroliferi che non ci sono in Italia, quindi certo. Dovremmo importare. In questo caso invece possiamo utilizzare materiale che già abbiamo. Ecco, allora, mi scusi Corbetta, allora, a basso costo, grande disponibilità, perché siamo pieni di automobili e quindi di relativi pneumatici, ma questi letti di gomma, al di là adesso della situazione del terremoto, ma dovrebbero essere messi praticamente in tutti gli edifici? Sì, ovviamente tutto va visto nel sistema complessivo di progettazione, però certamente nel progettare nuovi edifici o riprese di edifici esistenti, l'introduzione di questi, abbiamo detto, cuscinetti, guarnizioni in gomma sono essenziali proprio per bloccare la trasmissione del terremoto. Quello che noi vorremmo spingere, quello che noi auspichiamo è che, essendo sempre più manifesto che l'Italia è un paese soggetto a questo rischio e quindi ha bisogno di sviluppi e applicazioni di questa componentistica e di questo modo di progettare, e potendo offrire dall'altra grandi quantitativi di questo materiale che noi andiamo a raccogliere, noi raccogliamo il pneumatico fuori uso, lo portiamo alla frantumazione e quindi mettiamo a disposizione già il granulo pronto per l'applicazione, ecco, creare una combinazione, quindi un sistema win-win in cui da una parte facilitiamo certo. l'aspetto dell'ambiente e certo. dall'altra sviluppiamo benessere ed economia. Come siamo messi? Quante case hanno questo letto di gomma in Italia adesso? Ma mi sembra che in Italia pochissime, mentre ho letto recentemente che in Giappone quasi tutti gli edifici ce l'hanno, quindi c'è uno spazio enorme di applicazioni sì. Che noi auspichiamo si muova proprio per cogliere i due vantaggi che dicevo. Questo suo dire mi sembra pochissime, visto che lei dovrebbe sapere tutto, è un modo diplomatico per dire che non ce ne sono, insomma. Sì, anche se io sono esperto di gestione di pneumatici fuori uso e non di costruzioni civili, però certamente non è lo saprebbe, ragione, non è lo una saprebbe. Non è una un'applicazione nota diffusa in Italia. Grazie Corbetta e buon lavoro. Sì, grazie, arrivederci a tutti. E il resto al convegno di Ferrara, e ho qui ospite Walter Ganapini. Buonasera Ganapini. Buonasera. Ci conosciamo da tempo, Walter, ambientalista storico italiano, adesso tu fai parte del comitato scientifico dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, sei stato al convegno. Abbiamo appena parlato con Corbetta della possibilità di avere case fatte con criteri molto avanzati antisismici. Però fa parte dell'innovazione che facciamo in un territorio anche controllare che quello che si fa sia assolutamente in regola. Io so, Ganapini, che voi lì avete informazioni su delle cose che non sono particolarmente rassicuranti e che sono state oggetto, insomma, conseguenza del terremoto. Purtroppo, per quanto concerne anche l'uso del territorio nel nostro paese, ci sono stati passi indietro rispetto all'Europa anche negli ultimi decenni, e purtroppo anche una terra che ha dato un grosso contributo all'urbanistica italiana come l'Emilia-Romagna a partire da Bologna, innanzitutto deve riscoprire la centralità della risorsa più limitata ed importante che abbiamo, che è il suolo agrario. L'erosione urbana anche qui ha colpito purtroppo selvaggiamente, vuoi per motivazioni di bilanci dei comuni, vuoi per intrusioni sempre più verificate dalla magistratura di interessi criminali, e in questo contesto la vicenda tremenda del terremoto ha reso evidenti delle ferite che occorre rimarginare in fretta prima che da lì partano dei processi cancerosi che molte altre regioni purtroppo hanno già verificato. Intendo dire che da un lato, per quanto riguarda l'erosione urbana, è ormai patrimonio comune che anche in Emilia la diffusione di aree industriali con capannoni che poi sono risultati molto vulnerabili, fragili. Sono figlie di una strategia dissennata che in molti riconducono alla cosiddetta Tremonti bis, gli incentivi per fare dei capannoni senza che in realtà ne fosse chiara la finalità produttiva. Dopodiché ci sono segnali inquietanti che credo stiano per essere vagliati molto attentamente dalle procure intanto di Bologna e Ferrara, inerenti alla qualità del costruire. E purtroppo, come tu dicevi, il nostro paese ha fatto passi indietro e sul piano del rispetto delle regole e sul piano della verifica delle modalità di attuazione delle scelte. Ci sono dei casi che lasciano inquieti, anche se io non sono uno specialista di scienze delle costruzioni, ma ricevo segnalazioni che riguardano il sempre più frequente ricorso ai cosiddetti cementi magri, ben noti. Purtroppo in alcune porzioni ferite del nostro territorio, dalla Campania alla Calabria. Cementi magri, diamo qualche dato perché so che tu li hai, vuol dire che? Vuol dire che sostanzialmente, rispetto ai dati di capitolato, e ci sono anche dei contenziosi in corso, mi si dice da più parti, rispetto ai dati di capitolato ci sono stati direttori dei lavori che hanno abbandonato rapidamente il loro luogo perché impediti di far verifiche, e quelli che sono riusciti a far verifiche hanno visto che si trattava di cementi molto poveri, ma la cosa più inquietante pare essere la consuetudine di alleggerire di molto i cementi stessi dal punto punto di vista delle armature metalliche, del tondino. Ho sentito persone parlarmi con angoscia del fatto che alcune verifiche hanno portato a vedere che in alcune colonne di cemento armato ci fosse persino il 10% addirittura rispetto al 100% previsto al progetto e approvato dagli organi. Quindi, vuol dire che lungo tutta ci sono dei casi che lasciano senza fiato. A Carpi mi si dice ci siano gruppi di villette dei primi anni 90, addirittura su 20 villette 18 sarebbero venute giù in maniera anche abbastanza inspiegabile dal punto di vista strutturistico. Questi sono fenomeni, ci sono segnali che arrivano a consiglieri regionali che parlano addirittura di asporti frettolosi di macerie, quasi ci fosse la tentazione di, come dire, occultare le prove di questi fenomeni che sono gravissimi, che in Emilia erano sconosciuti. Sono poco più di 10-15 anni fa. E dunque è importante cogliere l'occasione, è stato importante cogliere l'occasione della riflessione di Ferrara per porsi sì i temi dell'innovazione, ma sapere che una delle più importanti innovazioni è rispettare una volta per tutte la risorsa suolo, è la risorsa più preziosa che abbiamo, la più limitata, è stata, come dire, valorizzata a partire dalle cosiddette centuriazioni di bonifica romana, parliamo di 2000 anni, ne hanno fatto la fortuna dell'agricoltura non solo emiliana, ovviamente posso riferirmi anche alla Lombarda o alla Piemontese e alla Veneta, i suoli sono una risorsa fondamentale da tutelare, occorre frenare in questo paese l'erosione urbana, la priorità non deve andare alle grandi opere dissennate, modello ponte sullo stretto o così via discorrendo, la priorità deve essere la manutenzione dell'esistente e la manutenzione dell'edificato. E l'importante è che la messa a norma antisismica che occorrerà porre in essere sia rispettosa delle esigenze poi di dare efficienza energetica agli edifici, fare tutto quello che si può e si deve per riportarci a standard europei, anche perché se, come dire, crolla il bastione emiliano è complesso che noi riusciamo a rimanere in Europa. Sì, certo, credo che questo sia un dato importante perché la penetrazione nella cantieristica di un'organizzazione come l'Ndrangheta in una regione come l'Emilia, che era piuttosto ben presidiata da questo punto di vista, insomma, è un dato inquietante. Va bene, è stato molto importante discuterlo al convegno perché, appunto, come dicevamo all'inizio, deve far parte dei processi innovativi. Grazie Walter Ganapini e buon lavoro. Grazie agli ascoltatori. Per tenere sotto controllo i mutamenti dell'ecosistema marino del cosiddetto Mar Giallo, ovvero quell'area dell'Oceano Pacifico che è prossima alla Cina, il governo di questo paese sta investendo cifre altissime, tutte rivolte alle ricerche e al monitoraggio. Qualcosa sta cambiando abbastanza velocemente e le cause possono essere le più diverse. C'è il problema del riscaldamento globale, l'inquinamento da scariche dei fiumi in mare, la Cina ha parecchi problemi di fiumi inquinati, anche attività di pesca fuori controllo. Per fare queste ricerche, una delle modalità classiche di raccolta dei dati si basa sull'individuare degli indicatori, ovvero una porzione dell'ecosistema che, essendo sottoposta a cambiamenti, sia possibile utilizzare come parametro di riferimento. E qui pare che i ricercatori cinesi abbiano deciso che un indicatore fondamentale sta diventando quello della presenza di meduse. Sono in crescita numerica e anche di dimensioni. Il problema, fra l'altro, non è solo cinese, ma anche giapponese, sono lì vicino, insomma. Quando si parla di dimensioni, si intende dire che esemplari con un diametro di 2 metri sono tutt'altro che rari, e quali ragioni siano la base di tale cambiamento è al momento tutt'altro che chiaro. Fra l'altro, le meduse stanno anche diventando un serio problema di sicurezza dei mari, perché ogni anno sono svariate decine nel Mar Giallo le vittime umane da contatto con questi animali. Alcune specie di meduse sono in grado di uccidere un essere umano nell'arco di soli 10 minuti dopo un contatto. Questa è la potenza degli acidi che sono emessi da questi animali. Come vi dicevo, una delle cause può certamente risiedere nell'eccesso di pesca industriale di alcune specie. Le sardine, per esempio, i cui banchi sono tipicamente controllori dello sviluppo delle meduse, in quanto esse rappresentano uno dei cibi preferiti da questi piccoli pesci, che però li attaccano a migliaia. Mi accorgo ora, Chiara, che abbiamo fatto una puntata non proprio gastronomica, archeogastronomica. Sì, sì, c'era dietro un disegno che ti abbiamo tenuto oscuro. Che adesso è emerso. Però stiamo per parlare di formaggi e, scusa, noi abbiamo mai parlato di formaggi a Mebius? Adesso prima. Non mi viene in mente, ma forse col professor Cassi qualcosa abbiamo detto. Con le tue robe, sì, forse, di cucina scientifica. Sui caseifici, qualcosa. Vabbè, ma a parte quello, secondo me il formaggio è una novità assoluta. È una novità assoluta e tra l'altro devo dire una novità anche abbastanza eccellente, perché le tracce di archeoformaggio che sono state rinvenute hanno guadagnato la copertina di Nature di, mi sembra, una settimana fa. Quindi direi di sentire innanzitutto l'archeologo capo di questa spedizione nel Sahara libico, che appunto ha fatto questi rinvenimenti importanti. Si chiama Savino Di Lernia. Intanto buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Di Lernia. Lei ovviamente è archeologo dell'Università La Sapienza di Roma e con lei ha avuto uno stretto collaboratore che si chiama Stefano Biagetti, corretto? Esatto, ecco. Che è assegnista di ricerca qui alla nostra università. Ecco, avete ottenuto la copertina di Nature, che insomma, gli italiani, tutti quelli che ottengono le copertine qua passano da noi, da Mebius. Però questa volta ci deve raccontare lei, vogliamo sentirlo dalle sue parole, come mai l'avete vinta, come mai avete guadagnato questo bel prestigioso, insomma, riconoscimento. Guardi, quando abbiamo fatto, diciamo, questo lavoro ed abbiamo mandato alla rivista, non ero certo che sarebbe stato accettato, perché ci sono molti meccanismi anche di lobby nel mondo scientifico internazionale, ma ero certo che se fosse stato accettato ci avrebbero dato la copertina, perché è raro che un'immagine così bella e così evocativa possa avere un valore scientifico così forte. Cosa c'era sulla copertina precisamente per chi non l'avesse vista? Una bellissima arte rupestre. È una bellissima foto di Roberto Cercacci, il fotografo della nostra missione, che taglia una mandria di bovini preistorici che sono datati in grosso modo a 7000 anni fa, ed è una foto molto bella, composta molto bella, molto bene da un punto di vista fotografico. Sono queste mucche pezzate che sono la caratteristica icona del neolitico sahariano, che punteggiano in maniera ossessiva, massicci, del Sahara centrale. In ogni grotta, ogni riparo troviamo questa bellissima arte rupestre, e questa fotografia rappresenta i bovini che erano stati munti proprio, di cui abbiamo trovato poi le prove archeologiche e sperimentali studiando i frammenti ceramici che provengono dal sito Takarkori a confine tra Libia e Algeria, nel Sahara libico. Cioè, mi scusi, nella raffigurazione c'è un processo di mungitura? Diciamo che la fotografia della copertina no, però ci sono prodotte nell'identico stile da siti vicini, ci sono raramente rappresentate scene di mungitura. Il punto è che l'arte rupestre è molto complessa per essere datata in maniera sperimentale con certezza, ci sono molti problemi di contaminazione e quindi ha sempre avuto una indicazione cronologica piuttosto lasca. Si dice circa 6.000 anni, circa 7.000 anni, in realtà noi stiamo sempre più raffinando la cronologia di quest'arte, però vedere una figura rupestre con queste scene di mungitura e trovare in un sito molto vicino dei frammenti ceramici con i residui di tracce di latte lavorato, beh, per noi è quella che si chiama una pistola fumante di un giallo risotto molto molto molto molto evoluto, che è quello dello sfruttamento secondario degli animali, che non è un fatto banale, che ha cambiato un po' il destino della nostra specie. Che è poi un po' anche il punto importante della vostra scoperta. Avete fatto uno più uno, insomma, qui gli elementi interessanti sono tanti. Allora, intanto delle mucche pezzate, dei pascoli nel Sahara, già c'è qualcosa da spiegare. E poi, oltretutto, dei vasellami che contengono del latte trasformato, quindi probabilmente del formaggio datato ai 7000 anni, anche questo nel Sahara, non è proprio banalissimo trovarlo. Quanto eravate dentro? Quanto sono dentro nel deserto? Guardi, noi siamo nel cuore del Sahara, è un posto di una bellezza stupefacente, al confine appunto tra Libia e Algeria, un massiccio montano che si chiama Tadrar Takakus. È un luogo totalmente desertico, sebbene le zone montane sono un po' più vegetate, però siamo in una zona dove non piove mai, quando piove è molto raro e ha caratteristiche imprevedibili, ed è proprio quindi a circa 1500 chilometri a sud di Tripoli, per avere un'immagine geografica insomma comprensibile a chi ci ascolta. Questi siti, questi insediamenti, questi villaggi preistorici sono per lo più posizionati in queste grotte, in questi ripari che, come appunto voi dicevate, appartenevano a un diverso Sahara, un Sahara che non era Sahara, era un paesaggio verde, possiamo immaginarlo come possono essere oggi i paesaggi della savana keniota, per esempio, oppure i paesaggi della Tanzania, quindi vegetati con alberi e con molti animali. Gli animali sono sull'arte rupestre, che il clima nel Sahara fosse stato diverso si sa da molto si tempo, sapeva, sì. Ovviamente vedendo le figure di ippopotami, coccodrilli, elefanti che sono istoriati sulle pareti di queste montagne. Era una savana alberata, noi abbiamo moltissimi dati geologici e anche botanici che ci danno informazioni molto precise per ricostruire l'ambiente di questi antichi pastori neolitici, e quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento, perché questa scoperta ha avuto, diciamo così, forte risonanza? Perché ha molte implicazioni proprio per la nostra specie. Noi non siamo capaci in maniera così automatica di digerire il latte, abbiamo impiegato del tempo a livello evolutivo per poterlo fare, e questo si traccia con delle modificazioni genetiche che non è sempre facile trovare nei resti preistorici. Avere trovato il latte lavorato, cioè sostanzialmente o acidificato o bollito, quindi insomma trasformato, che poi sia burro, yogurt o formaggio, questo ovviamente non si può dire con precisione essendo pochi microgrammi di oltre 7000 anni fa, però sappiamo con certezza che è stato lavorato e quindi è un prodotto che si può digerire. Questo ci dice molto in relazione proprio alla capacità di digerire il lattosio, che non è un fatto scontato, certo, che si lega a un più grande fenomeno del popolamento dell'Africa, che è un continente da sempre associato alla pastorizia, ma che per grande parte non sfrutta il latte, proprio perché non sono molte popolazioni moderne africane in grado di digerirlo. Mm-hmm. Quindi questo insomma è un valore molto forte che è stato recepito dalla rivista, che era pubblicato in pochissimo tempo, gli ha dato un grande spazio e gli ha anche insomma regalato la copertina, che devo dire fa la differenza, perché alla fine fa sempre l'esplosione mediatica è stata la copertina. E si può fare un'ipotesi della natura di questo latte trasformato? Cioè cosa poteva essere? Formaggio o poteva essere anche ad esempio del burro o dello yogurt? Guardi, noi possiamo dire alcune cose con buona certezza, cioè questi frammenti di vaso che abbiamo studiato, che abbiamo scavato Stefano ed io, sono dei frammenti che fanno parte di vasellame abbastanza grande, cioè vasi aperti di una trentina di centimetri di diametro, per cui sembrerebbero essere appunto vasi per la bollitura più che per la conservazione del latte, perché il latte lavorato, il formaggio non si mette nella ceramica perché si rompe. Quindi noi riteniamo che fosse un latte bollito, latte appunto fatto trasformare, probabilmente per fare appunto o del burro o dello yogurt, forse anche del formaggio, ma questo appunto non lo possiamo sapere. Certo non è un contenitore che si presta a conservare stabilmente un latte trasformato, è stato un contenitore utilizzato per trasformare il latte. E quindi come se avessimo messo del latte sul fuoco, l'avessimo fatto bollire, tenendo conto che siamo nel deserto del Sahara, che anche quando 7000 anni fa certamente ci pioveva, le piogge monsoniche d'estate creavano fiumi popolati da coccodrilli e pesci lunghi un metro, certo un paesaggio diverso, però un paesaggio comunque molto caldo, e quindi anche l'acidificazione naturale è un fatto che esiste in questi luoghi. Pertanto il fatto di trasformare il latte ci dice, come dicevo prima, due cose. La prima è quella della modificazione genetica, che comunque forse era già in atto tra queste popolazioni. La seconda è che conservare le cose ci permette di sfruttarle nel tempo, e questo archeologicamente è molto importante. Voi avete fatto le analisi, mi sembra, in collaborazione con l'Università di Bristol, se non erro, e che tipo di analisi avete fatto? Cioè siete andati a studiare i grassi? Esatto, io volevo sottolineare il fatto che questa ricerca è proprio un classico caso di networking, perché c'è l'Università di Roma La Sapienza che ha la concessione di scavo in queste aree e che ha coordinato il progetto nelle sue pieghe. Bristol è forse il team al mondo più forte per quanto riguarda proprio le analisi chimiche di questi grassi acidi, e le analisi svolte, peraltro con delle tecnologie estremamente raffinate e molto avanzate, che consentono di analizzare microgrammi quasi a livello molecolare, sono state condotte appunto da Richard Evershed e Julie Dunn, che sono delle gas cromatografie e degli studi isotopici di questi grassi identificati. Lo studio isotopico è di grandissimo interesse perché non solo ci dice tutto quello che già ci ha detto, che c'era latte, che questo latte era trasformato, che verosimilmente era yogurt, burro o formaggio, ma ci dice anche che questi pastori, ci dava una conferma appunto analitica che questi pastori erano nomadi, transumanti, che si spostavano stagionalmente proprio per gestire nel modo più adatto le caratteristiche di un paesaggio, che era un paesaggio comunque fortemente alternato stagionalmente, appunto è come le savane della Tanzania, dove d'estate ci sono le piogge che riescono a realimentare il sistema, poi l'aridità di fatto lo riasciuga per poi nuovamente essere rinnaffiato dalle piogge stagionali. Questo accadeva nel Sahara e questo c'è nella traccia isotopica di questi frammenti che avete trovato. Esattamente. Va bene, grazie di Lernia, buon lavoro, tornerete? Sicuramente. Dipende, diciamo, dalla situazione politica. Noi certo. Siamo sempre rapporti eccellenti con i colleghi libici che sono ricercatori e scienziati, e soprattutto con i Tuareg che ci hanno aiutato tantissimo. Anche un successo di questa ricerca si deve anche ai Tuareg che ci hanno aiutato nel campionamento di latte e burro di animali che oggi vivono nelle montagne del Sahara. Appena ci daranno l'ok ci torniamo. Grazie di Lernia, lei ci ha mandato delle bellissime foto della spedizione che noi mettiamo nel nostro sito, quindi per gli ascoltatori le possono trovare sul sito www.moebiusonline.eu. Buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci a voi, grazie, arrivederci. Abbiamo finito con i formaggi. Con la nostra archeotavola imbandita abbiamo concluso. Se oggi vai a vendere mozzarella dal Sahara ti arrestano immediatamente. Sì, beh, non so quanto si mantengano comunque. No, però si capisce che è una truffa. D'altronde la mozzarella di bufala dove si fa? Al sud, verso il sud. No? Quella buona era quella del Sahara. Buona settimana a tutti, ci rivediamo qui fra 7 giorni. Ciao!